Enfin. In. In principio, nel mio principio. Am Anfang, in my beginning. Ah. In principio erat. In principio erat. Das Wort. In arte. Verbum. Am Anfang. nel mio principio, das Wort. Mio principio. Am Anfang bist du. Principio erat. Nel mio principio. Das Wort. In arche. In verbum. Am Anfang war. In principio erat. Nel mio principio. Nel mio principio. Das mir L'uomo al centro. L'uomo ha. L'uomo ha. L'uomo al centro, chi è la sexe? L'uomo al centro, chi è la sexe? E nessun le fans nel mio centro è il mio corpo. L'uomo al centro, chi è? Le sex. E il mesole. Le fellus. Nel mio centro, nel mio principio, nella mia parola, nel mio centro, nella mia bocca, nella mia bocca, nella mia fine, amen. Nella mia fine, amen. My end. L'anima sono parlandis. Nella mia fine, in my end, is my mu. E te, Tone. Ron. Nel mio centro, nel mio centro è il mio corpo. Nel mezzo. Nel mezzo. In medio. Nel mio mezzo. Nel mio corpo. Où commence le corps humain? Nel mezzo. Del cammino. Nel mezzo. Del la mia. Nel mio principio e la mia bocca. Parce que il y a paradisio. La bouche. L'anus in my beginning, in my beginning, beginning, beginning, beginning. Aleph is my end. Aleph is my end. Aleph is my end. A-E-I-E-R. A-E-I-E? Aleph is my end. A-E-I-E. Oof is m-m-d. A-E-I-E. A-F is my end. A-F is my end. A-F is my end. A-F is my end. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. La bouche. Ten ten ten ten ten ten ten ten ten. L'uomo ha un centro, chi è le sexe? E in mezzo il vellus. Nel mio centro è la mia corpo. Nel mio principio è la mia parola. Nel mio centro è la mia bocca. Nella mia fine. Am end. In my end. Run is my beginning. L'âme du morso par le pied, par l'anus, nella mia fine. Levatas vort. In my end is my music. E te con ne ron. Ne. Ten. Io aue. Ten. Oi. E ue. E a? Ue iue. Oe iu. Oe ia i. Ie o e a i o. Ai e e o e o. E a i e a. Ai a i. E a i e a i. Hey, I, oh, oh, eh. Den, den, den. I, I, L, I, I, U, E. In my end is my music. Den, den, den, den. Den, den, den, den, den, den, den. Den, den. Den, den. Den, den, den. Den, den. Den, den. Den, den, den. Den, den. In my end is my music, bad as what Palladius, nella mia fine, l'an du mal sol palle pie. In my end, run is my beginning, nel mio principio, nella mia parola, nel mio centro, nel mio principio, nella mia bocca, la schiglia, l'opposition, per la bouche, la nus, in mezzo, le Palladius. Ein Gespenst geht um! Sex and resonant differences. Centro del mio corpo. Oh. mie la sveglia. Ro-ne.